sogni vive ancora. Nei sogni vive ancora. Chi ci è morto da poco. Chi ci è morto da poco. Non i sogni sono folli, folle la veglia, folle la veglia, folle la veglia. Nei sogni vive ancora. Chi ci è morto da poco.